Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Lei, Deborah Piccinini, intende unirsi con Elena Vanni? Sì. E lei, Elena Vanni, intende unirsi con Deborah Piccinini? Sì. In seguito alla risposta affermativa, io, Fausto Tinti, ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel San Pietro Terme, dichiaro in nome della legge che siete unite civilmente. Questo è l'entusiasmo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di una coppia di donne, la prima in assoluto in Italia che è riuscita a unirsi civilmente. Sapete che è stata approvata la legge maggio scorso, adesso devono arrivare i decreti attuativi, però c'è stato questa specie di decreto ponte avviato dal Consiglio di Stato, ne abbiamo parlato i giorni scorsi, quindi per loro, insomma, momento di gioia, perché ci sono veramente pochi tra le notizie, bisogna dire. E intanto perché continua questa paura del terrorismo e per la Germania sono veramente giorni difficili questi. Ci siamo lasciati venerdì con l'attacco di questo 19enne di origini iraniane, però tedesco, al centro commerciale Olimpia a Monaco di Baviera, e poi domenica c'è stato quest'altro attentato che è stato oggi ufficialmente rivendicato dall'ISIS. Quindi paura, perché effettivamente l'ISIS sta colpendo anche in Germania e non solo. Ma poi bisogna dire che c'è anche questa psicosi che sta contagiando l'Europa, nel senso che c'è tutta una serie di falsi allarmi di cui poi anche parleremo. Cercheremo anche di capire come l'ideologia terroristica di distruzione del prossimo si possa innestare nelle menti più labili, insomma, con persone, diciamo, uomini con problemi psichici. Questa è un'analisi piuttosto interessante che faremo. E poi parleremo naturalmente anche della convention democratica. Abbiamo seguito la scorsa settimana quella di Trump, la convention repubblicana. E c'è per esempio il regista Michael Moore, sapete, il giornalista, il regista di inchieste, di denunce, eccetera, che dice ci sono ben 5 motivi perché sono sicuro che vinca Trump. Anche di questo parleremo. E poi Mancini, tecnico dell'Inter che è verso le dimissioni, capiremo se effettivamente, insomma, è rottura definitiva. Intanto voi, per qualsiasi di questi temi della giornata e di Effetto Notte, volete fare i vostri commenti e le vostre riflessioni, sapete che c'è il numero per i messaggi WhatsApp, che è 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Il numero è 349-238-6666. Intanto vediamo, come sempre, che giornata è stata. Germania, l'ISIS rivendica l'attentato di Asbach compiuto da un profugo siriano con problemi psichici che in un video giurava fedeltà al sedicente califfato. Incubo terrorismo, stillicidio di falsi allarmi in Europa, finto allarme bomba anche a Milano, era una scatola con circuiti elettrici. Presidenziali americane, parte a Filadelfia la convention democratica per l'investitura di Hillary Clinton, ma Trump vola nei sondaggi, primo sorpasso del magnate. Politica italiana, polemiche per una frase di Salvini, Boldrini come una bambola gonfiabile, dice lui, anche la Pivetti però lo critica duramente, ma lui risponde non mi scuso. Legalizzazione della cannabis, il provvedimento all'esame dell'Aula, voto finale rinviato però a settembre. Violenza sulle donne, Branco violenta una quindicenne, trappola tesa dal fidanzato, di lei 12 indagati, tutti minorenni finiti in comunità. Rai, gli stipendi diventano un caso politico, scontro PD Movimento 5 Stelle, dopo il CDA saranno online nomi e cifre della discordia. Calcio, si è consumata la rottura tra Mancini e l'Inter, il tecnico verso le dimissioni. Partiamo quindi da questi giorni particolarmente difficili per la Germania, che sta vivendo proprio a causa degli attentati. L'ISIS ha rivendicato l'attacco di Ansbach a una quarantina di chilometri da Norimberga. Uno scoppio improvviso nel centro della cittadina ha fatto 12 feriti. Aveva giurato fedeltà all'ISIS l'attentatore che ieri sera si è fatto esplodere davanti a un festival musicale in un locale nel centro di Ansbach, città di 40.000 abitanti in Baviera. E l'ISIS, tramite l'agenzia di stampa del califfato, ha rivendicato subito l'attacco, definendo l'uomo uno dei nostri soldati. Mohamed Dellel, questo il nome dell'attentatore, aveva 27 anni, era siriano, molto probabilmente da Aleppo, soffriva di disturbi psichici. Le autorità tedesche hanno trovato un video nel suo cellulare in cui l'uomo giura fedeltà ad al-Baghdadi. Nell'abitazione sono stati trovati anche materiali per la fabbricazione di ordigni. Era stato bloccato dagli addetti alla sicurezza del concerto perché non aveva il biglietto. Gli investigatori non hanno ancora chiarito se l'uomo volesse farsi esplodere o cercasse di innescare l'esplosivo con un dispositivo forse collegato a un telefono cellulare. La vicenda apre la ferita dei rifugiati in Germania, in particolare in Baviera, che ha subito 3 attacchi nell'ultima settimana, di diversa natura certamente, ma ora la Baviera reclama un giro di vite. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed erano invece una coppia, il giovane profugo siriano 21enne e la donna polacca di 45 anni, che lui ha ucciso ieri a Rautlingen, vicino Stoccarda. Lo hanno reso noto la polizia e la procura della cittadina tedesca. Entrambi erano impiegati nel ristorante, si erano conosciuti proprio sul posto di lavoro. Nell'interrogatorio sono emersi indizi di labilità psichica da parte di quest'uomo. Il profugo ha colpito ieri sera la donna polacca alla testa con un machete, ferendo poi anche alcuni passanti. E la paura, vi dicevo, attentati contagia l'Europa con una serie di falsi allarmi. La ravvicinata sequenza di attentati terroristici, di stragi isolate come quella di Monaco, hanno innalzato il livello di tensione, moltiplicando gli allarmi. Un'auto sospetta ha fatto chiudere questa mattina una fermata della metropolitana di Londra. Nel pomeriggio un pacco sospetto ha bloccato la stazione centrale della M2, la metropolitana 2 a Milano. Falsi allarmi anche a Ventimiglia per una telefonata anonima e una all'aeroporto di Fiumicino. Però torniamo su quello che è successo oggi a Milano, e c'era per noi il nostro Adriano Palazzolo, che adesso è qui. Ciao Adriano. Buonasera, buonasera. Quindi un falso allarme anche questo. Un falso allarme, però la preoccupazione è stata reale. Poco prima delle 17 un suono prolungato di sirena ha lanciato questo allarme che ha portato all'evacuazione dell'intera stazione centrale di Milano per un pacco. La circolazione della metropolitana è stata interrotta in ben 2 tratti di 2 linee che si intersecano proprio sotto la stazione. Per i passeggeri ovviamente sono state messe a disposizione le navette sostitutive. Io però mi trovavo alla stazione di Cadorna, che è un altro degli snodi principali della città, e lì i disagi non mancavano perché in tanti chiedevano al personale di terra come ritornare a casa. Diciamo che da centrale partono anche tanti treni per i pendolari che vanno verso le altre province. Quante sono state più o meno bloccate le metropolitane? Già alle 19, quindi due ore, l'emergenza è rientrata, la circolazione è ripresa in maniera regolare. Il pacco si è rivelato innocuo, all'interno prima si diceva ci fossero una batteria e dei cavi elettrici, adesso si è scoperto che in realtà conteneva una banalissima autoradio. Questo però non ferma gli inquirenti, che adesso dovranno visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza, certo, per capire chi ha lasciato volontariamente o involontariamente questo pacco e capire che di natura è questo fatto, sì. Insomma, se fa parte della psicosi qualcuno che è smemorato ha mollato lì un autoradio, oppure se voleva essere un avvertimento, sì, un allarme vero. Grazie Adriano Palazzolo. Buonasera. Grazie Adriano. Adesso invece spostiamoci all'estero, in Turchia. L'azione di repressione del presidente Erdogan dopo il tentato golpe non conosce fine. Il Ministero della Salute turco ha sospeso oltre 5.000 dipendenti per sospetti legami con la rete del predicatore Fethullah Gulen, accusato, ormai lo sapete, da Ankara di essere dietro il fallito golpe. Lo ha annunciato il ministro competente. Il totale delle persone cacciate dalle pubbliche amministrazioni supera a questo punto quota 50.000, senza contare poi 21.000 docenti, cui è stata revocata la licenza per insegnare nelle scuole private. E adesso fedelissimi di Erdogan accusano la CIA di essere dietro questo fallito colpo di Stato. Parliamo anche del caso Regeni, perché sono trascorsi ormai 6 mesi dalla sparizione di Giulio, del nostro Giulio, dicono i genitori. Siamo qui a chiedere sempre più forte verità e giustizia, sono le parole di Paolo e Claudio Regeni durante un collegamento telefonico con il Pantheon a Roma, dove le 19.41, orario proprio della sparizione del ricercatore italiano al Cairo 6 mesi fa, sono state accese a Roma decine di fiaccole per ricordare il giovane. Grazie a tutti coloro che hanno organizzato la fiaccolata e a tutti coloro che sono lì in piazza Roma, ha detto la madre, anche noi abbiamo acceso delle piccole fiaccole, sempre ancora giallo per lui. E poi la politica italiana, voto finale rinviato a settembre per la legalizzazione della cannabis. Un disegno di legge sostenuto da 221 deputati e combattuto con 2.000 emendamenti, la legalizzazione della cannabis approda nell'aula di Montecitorio tra le polemiche. Favorevoli un'ottantina di deputati 5 Stelle, altrettanti del PD e quasi tutti quelli di Sinistra Italiana. Sostiene l'iniziativa anche il sottosegretario agli esteri Benedetto Della Vedova. Il tema non è più se la cannabis verrà un giorno legalizzata, ma quando e come? Noi vogliamo farlo prima e bene. Contrario il centrodestra, per Renato Brunetta il testo arriva in aula con una forzatura, mentre i centristi di Area Popolare presentano 1300 dei 2000 emendamenti. L'esame del disegno di legge viene poi rimandato a settembre, ma il fronte del sì conta anche sull'appoggio dello scrittore Roberto Saviano, per il quale legalizzare vuol dire togliere il commercio a mafie e terroristi. Secondo la relazione del 2016 presentata dall'Osservatorio Europeo delle Droghe, al primo posto nel traffico di stupefacenti c'è proprio la cannabis, per un giro d'affari tra gli 8 e i 12 miliardi di euro. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sempre per quanto riguarda la politica italiana, c'è questa polemica suscitata dal leader della Lega Salvini, che aveva paragonato su un palco domenica, ieri, una bambola gonfiabile alla Presidente della Camera Boldrini. Ebbene, le donne non sono bambole, la lotta politica si fa con gli argomenti, per chi li ha, non con le offese. Lascio a voi ogni commento. Questa è stata la risposta della Presidente della Camera Boldrini su Facebook, dopo che ieri appunto Salvini a Soncino nel Cremonese ha detto: sul palco c'è una sosia della Boldrini, indicando appunto questa bambola gonfiabile. Coro di critiche al leader del Carroccio, tra cui quelle accese delle ministre Boschi e Madia, ma anche Irene Pivetti ha detto: è stata una grande scemenza volgare. Fa discutere poi l'operazione Trasparenza in casa Rai. Diventa sempre di più un caso politico l'operazione Trasparenza in casa Rai. Ad alimentare nuove polemiche è la pubblicazione su internet degli stipendi dei dirigenti di Viale Mazzini, che guadagnano più di 200.000 euro all'anno, compensi di tutto rispetto. Si va dai 650.000 euro dell'attuale direttore generale Campo Dall'Orto agli oltre 300.000 in media che vanno ai top manager, ai direttori di rete e a quelli dei TG. I vertici Rai sono stati convocati per mercoledì dalla commissione di vigilanza. Il Partito Democratico sta pensando di estendere anche alla Rai, con la prossima legge di stabilità, il tetto dei 240.000 euro annunciato dal premier Renzi per gli stipendi dei manager pubblici. Ma proprio su questo il Movimento 5 Stelle va all'attacco del PD, così la pentastellata Liuzzi. Questa proposta fu fatta già dal Movimento 5 Stelle l'anno scorso, durante la legge di stabilità. Presentai io direttamente l'emendamento, la proposta di modifica, che fu anche in quel momento bocciata dal Partito Democratico e dal governo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Un'inchiesta adesso si allarga ulteriormente con tre nuovi indagati. L'inchiesta sul dissesto della Banca Popolare di Vicenza. Nel registro delle indagini compaiono ora con l'ex presidente Zonin e altri cinque manager, anche gli ex consiglieri di amministrazione Roberto Zuccato, attuale presidente di Confindustria del Veneto, e Franco Miranda, già leader degli artigiani vicentini, e un funzionario incaricato di stendere il bilancio, Massimiliano Pellegrini. La cronaca adesso nel napoletano, dove sono state emesse 11 misure cautelari per uno stupro di gruppo di una minorenne. Sono tutti minorenni gli 11 ragazzi accusati di violenza sessuale ai danni di una giovane di 15 anni di Castellammare di Stabia. La vittima, che ha denunciato lo stupro nelle scorse settimane, sarebbe finita in una trappola organizzata dal suo stesso fidanzato, un coetaneo e anche parente di un boss locale. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che la giovane è stata filmata con un cellulare durante un primo rapporto consenziente in un garage, per poi essere costretta ad altri rapporti con gli amici del fidanzato, dietro la minaccia di pubblicazione del video hard su internet. Il PM ha ascoltato la ragazza e ha raccolto alcune testimonianze che hanno poi portato all'identificazione di tutti i responsabili della violenza di gruppo. Gli 11 minorenni sono stati ora trasferiti in una comunità di recupero, mentre nei confronti del più piccolo, che ha meno di 14 anni, la procura sta procedendo separatamente. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi il sequestro di persona, violenza sessuale, atti persecutori, violenza privata, appropriazione indebita sono le accuse rivolte a un pregiudicato di Brusciano, vicino Napoli, Luca Esposito, arrestato dai carabinieri su disposizione della procura di Nola per aver sequestrato l'ex convivente, costringendola ad avere rapporti sessuali con lui, minacciandola con le armi, fino a minacciare anche i familiari della donna per poi obbligarla a trasferirsi altrove, occupando abusivamente il suo appartamento. Violenze che, secondo quanto appurato nel corso delle indagini, andavano avanti dal 2013. Per chiudere il calcio, con i rapporti tesi tra Mancini e la società e l'Inter, il tecnico non è soddisfatto del mercato e pensa a lasciare anche prima dell'incontro con la società cinese, il Suning. Anche di questo parleremo più tardi. Per i vostri commenti su qualsiasi di questi temi che vi ho raccontato e che poi approfondiremo con i vari ospiti, ci sono la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, numero per i messaggi, per i WhatsApp, 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte. Aggiornamenti per chi viaggia e ci sentiamo tra pochissimo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi, quindi riassunto della giornata che avete sentito. Cominciamo allora a entrare nel cuore di alcuni argomenti più importanti. Parliamo, purtroppo dovremo parlare di terrorismo tra pochissimo, ma evidentemente è inevitabile perché, come dice qualcuno, rischia di diventare un tema di routine, insomma, nel nostro quotidiano. Intanto però, se non avete sentito acceso puntualmente la radio alle 21 su Effetto Notte, vi ricordo tra pochissimo le notizie più importanti. Per i vostri messaggi 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Salvini, Salvini ha offeso le bambole gonfiabili, questo è un ascoltatore spiritoso. Invece Giuseppe dice, invece delle unioni civili pensassero alle pensioni da fame. Intanto le unioni civili, questa cosa era doverosa, mi pare sia stata più o meno risolta, ancora devono arrivare questi decreti attuativi, però avete sentito all'inizio l'unione civile in comune vicino al bolognese della prima coppia italiana, due donne. Le notizie più importanti. L'ISIS colpisce in Germania, ad Ansbach poteva essere una strage, il kamikaze è un rifugiato siriano, giurò fedeltà al sedicente califfato. E poi al via Hillary Show a Filadelfia, quindi la convention democratica, ma Trump vola nei sondaggi, per la prima volta sorpassa Hillary. E intanto Sanders, Bernie Sanders, che era il rivale comunque democratico di Hillary Clinton, la sostiene a questa convention, dice votate Clinton e i suoi sostenitori, viene fischiato dai fan perché pare che ci sia una storia di sabotaggio dietro il fallimento, diciamo, di Bernie Sanders, ma poi ne parleremo. Online gli stipendi della Rai, 94 sopra i 200.000 euro, poi scontro tra il Movimento 5 Stelle e il PD per il tetto e per la trasparenza per gli stipendi Rai. Ancora bambola gonfiabile, sosia di Boldrini, bufera su Salvini, non c'è invece, per quanto riguarda sempre la politica, accordo sulla cannabis, il disegno di legge viene rinviato a settembre. E infine Verizon, che compra Yahoo per 4,8 miliardi di dollari, sparirà anche il nome storico di Yahoo, sfida a Google e Facebook. Parliamo quindi di terrorismo, dicevamo, ormai purtroppo tema quotidiano. L'ultimo atto di terrorismo comprovato, verificato, perché appunto c'è anche la rivendicazione dell'ISIS, quindi al di là dei vari psicopatici solitari come il 19enne che ha fatto una strage venerdì, ne abbiamo parlato, al centro commerciale Olimpia a Monaco di Baviera. Bene, è avvenuto sempre in Germania, ad Asbach, questo attentato. Ieri un uomo, Mohamed Delel, così si chiama secondo inquirenti tedeschi, 27enne siriano, domenica è morto nell'esplosione di questa cittadina Ansbach. Aveva cercato di entrare al festival musicale in corso, era stato però respinto e poi quindi si è fatto saltare davanti a un ristorante vicino, ferendo 15 persone. L'ISIS ha rivendicato l'attentato. Dice l'ISIS, era un nostro soldato, lo dice l'agenzia AMAC, e un altro uomo potrebbe tra l'altro averlo aiutato, è stato arrestato questo presunto complice. La polizia bavarese fa sapere che l'ordigno artigianale era stato costruito dallo stesso Delal, questo fa insomma preoccupare ulteriormente, perché anche la Germania, a quanto pare, come lo è stata la Francia, come è stato il Belgio, è nel mirino dell'ISIS. Ne parliamo con il professor Alessandro Orsini, direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell'Università di Roma Tor Vergata e docente di sociologia del terrorismo all'Università LUISS, nonché autore di ISIS, i terroristi più fortunati del mondo e tutto ciò che è stato fatto per favorirli. Buonasera professor Orsini, bentornato. Buonasera a voi, buonasera. Professore, quindi anche la Germania nel mirino. L'ultima volta forse che ci siamo sentiti parlavamo anche del fatto che probabilmente il sedicente califfato attacca in particolare non tanto i valori occidentali, no? Spesso anche per esempio un ministro tedesco ha detto noi vogliamo continuare a mantenere i nostri valori, non ci piegheranno in questo senso. Lei diceva è più un attaccare coloro che diciamo compromettono i loro interessi, interessi dei jihadisti nei territori che loro vogliono occupare, dove si vogliono allargare in Medio Oriente, no? In realtà però la Germania non è uno dei paesi più aggressivi nei confronti dell'ISIS in Iraq, in Siria. Sì, questa la sua è un'ottima osservazione, però attenzione al trucco. Io ho sostenuto nel mio libro, ho elaborato questa formula: colpiamo coloro che ci colpiscono. E i paesi dell'Europa occidentale che bombardano le postazioni dello Stato islamico sono 5: Francia, Inghilterra, Belgio, Danimarca e Olanda. Tra questi dunque non figura la Germania, quindi apparentemente la mia formula non funzionerebbe. E invece il caso della Germania la conferma, perché il 1 dicembre del 2015, dopo la strage del 13 di novembre del Bataclan, Hollande si recò dalla Merkel e le chiese aiuti militari per sostenere i soldati francesi nella lotta contro l'ISIS in Siria e in Iraq. La Merkel accondiscese e il 4 dicembre del 2015 il Parlamento tedesco a larga maggioranza, con 445 voti a favore contro 150, decise di inviare 1200 soldati tedeschi per sostenere i soldati francesi in Siria contro le postazioni dello Stato islamico, decise di inviare una enorme nave da guerra che sostanzialmente viene utilizzata da francesi anche se viene gestita dai soldati tedeschi, ha inviato sempre in favore dei francesi degli aerei cisterna che siano in grado di rifornire gli aerei francesi in volo mentre bombardano le postazioni dello Stato islamico, ha inviato aerei per effettuare voli di ricognizione sulle postazioni dello Stato islamico per dare informazioni ai francesi che poi conducono i bombardamenti. Ne consegue che la Germania non bombarda direttamente l'ISIS, ma è come se lo facesse. Però Orsini, la cosa particolarmente grave è che in questo caso di questo attentatore di Asbach si tratta di un profugo siriano. La cosa richiama due piani, nel senso che quindi potrebbe questo creare ulteriori o rinfocolare ulteriori polemiche sui profughi che arrivano, no? Che quindi vengono accolti nei vari stati europei, e dall'altra però pare che avesse dei problemi psichici, quindi dall'altra parte c'è anche questa paura dei cosiddetti lupi solitari, o io li chiamerei psicopatici solitari, no? Quindi non soltanto quelli che portano avanti un disegno ben preciso, un obiettivo affiliati all'ISIS o a strutture jihadiste, ma che a un certo punto si autoproclamano, certo, no, terroristi del momento, insomma, certo, estemporanei. Certo, ma questo è un fenomeno molto frequente, nel senso che lo abbiamo avuto in passato, di lupi solitari che si autoproclamano o militanti dell'ISIS o militanti di Al-Qaeda. Ad esempio Michael Bibeau, che realizzò la strage, chiamiamola così, di Ottawa nell'ottobre del 2014, è uno di questi casi, ma ne potrei citare molti altri. Il problema fondamentale è che in questo caso si tratta di un profugo siriano. Quindi questo fatto potrebbe avere un effetto dirompente nel dibattito pubblico per quanto riguarda appunto il tema dell'immigrazione e dell'ospitalità che noi diamo ai profughi, nella fattispecie ai profughi siriani. Quindi anche perché, professor Orsini, da Bruxelles arrivano proprio parole di fermezza dopo quest'ultimo attentato: le porte dell'Europa sono e restano aperte per chi fugge da guerre e persecuzioni e cerca asilo, ma ci difenderemo da chi cerca di attaccare il nostro modello di vita. Questo lo dice il portavoce della Commissione Europea Margaritis Schinas. Quindi insomma, e poi si parla anche di un'ulteriore stretta della possibilità di avere armi in Europa. Non so se questo però possa essere effettivamente un procedimento efficace. Non credo che dipenda dalla facilità di avere armi in Europa, no? Questa cosa. Secondo me c'è una polemica in atto. Sì, io non credo che il punto fondamentale sia questo. Io credo che tutti questi attentati terroristici ci stiano invitando a entrare in una nuova prospettiva psicologica, nel senso che noi dobbiamo accettare in maniera matura che siamo entrati in questa terribile era. Questa è la differenza tra un adulto e un bambino. Il bambino rifiuta la realtà, come dire, battendo i piedi per terra. L'adulto invece la deve accettare anche se non è bella. Ora, quello che ne sappiamo è che nello scorso anno statistico, quindi nel 2015, ci sono stati nel mondo non 3 attentati terroristici, Istanbul, Nizza e Parigi e Bruxelles, 4, 3 o 4, ce ne sono stati 12.000. che hanno causato la morte di 28.000 persone, il che vuol dire che nel 2015 ne abbiamo avuto una media di quasi 1.000 attentati terroristici al mese. Il problema fondamentale è che il 74% di questi 28.000 morti in attentati terroristici nel 2015 si sono concentrati in 5 paesi, che sono Afghanistan, Pakistan, Nigeria, Siria e Iraq. Il punto fondamentale è che questa gigantesca nube tossica rappresentata dagli attentati terroristici si sta spostando verso l'Occidente. Che cosa possiamo fare? Dunque, innanzitutto dobbiamo accettare che avremo altri attentati terroristici, quindi dobbiamo stringere i denti e cercare di essere forti, e questa è innanzitutto una responsabilità della classe dirigente, non delle persone comuni, perché alle persone comuni non si può chiedere di essere forti, questo è un compito della classe dirigente, vale a dire dei politici di professione, dei professori universitari, dei giornalisti, dei magistrati, di coloro che governano questa società e che hanno anche una responsabilità morale per quanto riguarda l'esempio e la condotta. Che cosa si può fare? Nel concreto noi abbiamo soltanto una possibilità di vedere ridurre questi attentati terroristici, che è la liberazione di Raqqa, la città in cui si trova al-Baghdadi, questo è il punto fondamentale, perché come ho spiegato nei miei libri, il rapporto che si instaura tra un militante jihadista e un'organizzazione come l'ISIS è simile al rapporto che si instaura tra un tifoso di calcio e la squadra del cuore. Quando questa squadra vince tante partite c'è un fenomeno di effervescenza collettiva per cui gli stadi si riempiono. Quando invece le squadre precipitano verso il basso, gli stadi si svuotano. Accade esattamente la stessa cosa con le organizzazioni terroristiche, che si tratti di organizzazioni di estrema sinistra, di estrema destra o jihadiste. L'aspetto, questo è molto interessante, professor Rossini, ma l'aspetto frustrazione invece, che potrebbe spingere ulteriormente a sfogare il proprio rancore in questi, sparando nel mucchio? In genere non è l'effetto frustrazione, è l'effetto esaltazione, perché questi ragazzi che si fanno saltare in aria non dispongono delle informazioni di cui dispongo io, che dalla mattina alla sera sto a guardare quello che accade nei domini dell'ISIS. Questi ragazzi sono colpiti dalla propaganda dell'ISIS a Raqqa, quindi sono convinti che l'ISIS sia in ascesa e che stiano per conquistare il mondo intero. Non sanno invece che l'ISIS è con l'acqua alla gola e che se non ci saranno impedimenti politici, nel volgere di poco tempo Mosul e Raqqa saranno travolte. Ora, il punto fondamentale è che queste due città finora non sono state travolte non per motivi militari, ma per ragioni politiche, perché i grandi della terra hanno mentito spudoratamente, cioè Obama e Putin, affermando che la loro priorità fosse la riconquista di Raqqa e di Mosul, quando in realtà, come sappiamo, la loro priorità è sempre stata la conquista di Damasco per fagocitare un pezzo importantissimo di Medio Oriente che si chiama Siria. Però noi abbiamo anche delle buone notizie, perché sappiamo che le Nazioni Unite l'altro ieri hanno chiesto centinaia di milioni di dollari per accompagnare l'azione militare che sembra essere imminente contro Mosul, perché prevedono già che dovranno dare assistenza a circa 1 milione di persone. Quindi la buona notizia è che se non ci saranno veti politici, impedimenti politici come ci sono stati finora tra Putin e Obama che si sono ostacolati a vicenda, l'ISIS dovrebbe essere travolto nel volgere di un tempo relativamente breve. Se questo accadrà, cioè se Mosul e Raqqa saranno liberate, noi dovremmo assistere a una forte diminuzione, se non addirittura a un crollo, degli attentati terroristici contro le città occidentali. Speriamo che sia così, professor Rossini, che sia questa la buona notizia, e speriamo anche in tempi brevi. Avremo modo di risentirci comunque. Grazie, professor Alessandro Rossini. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Ecco, questa è quindi la risposta a questa ascoltatrice, Grazia di Novara, che ci guardavamo i film di alieni con paura che potesse diventare realtà, invece si chiama ISIS, ma è possibile che non riescono a sconfiggere questi criminali? Il professor Rossini ha detto come potrebbe almeno in parte avvenire. Però è interessante questa, diciamo, anche l'aspetto psichiatrico, no? Come facilmente teologia, diciamo così, una religione della morte, nel senso del desiderio di distruzione del prossimo, come a volte unico obiettivo, possa davvero attecchire su menti labili, come abbiamo visto appunto, come è successo con questo 19enne tedesco di origini iraniane che ha ucciso 9 persone sparando nel mucchio contro dei ragazzi, anche dei bambini, anche se i bambini sono rimasti solo feriti a Monaco di Baviera venerdì, e poi anche in Belgio un altro minorenne che ha detto una bomba, insomma, ha allarmato molto una folla di persone, poi invece non aveva nulla. Oppure queste cose che succedono comunque in altre parti d'Europa. Ne parliamo con Corrado De Rosa, che è psichiatra, scrittore, ha scritto Nella mente di uno jihadista per una psicologia dell'ISIS, appena pubblicato. Buonasera De Rosa. Salve, buonasera. Perché, diciamo, questa paura contagia l'Europa con falsi allarmi, ma anche con una, come potremmo dire, una sindrome da emulazione, no? quindi che rapporti ci sono tra terrorismo, questo sparare nel mucchio, questa ferocia arbitraria, e il fatto di avere dei problemi psichici? E poi scrive anche Clotilde, fra l'altro, stavo guardando questo messaggio al 349-238-6666: mi potete spiegare come mai sono solo uomini questi psicopatici terroristi o stragisti e non ci sono donne? Allora, io provo a semplificare un po' il ragionamento, però tenendo sempre presente una questione, che sì. La premessa è che l'equazione follia e violenza è un'equazione che non tiene sempre, nel senso che è modesta e che aumenta molto solo quando c'è un abuso di sostanze nelle persone che hanno un disturbo psichico. Cioè, le persone che hanno un disturbo psichico hanno una probabilità di essere violente più o meno simile a quella della popolazione generale. Detto questo, noi non ci possiamo dimenticare del fatto che su questo ragazzo, parliamo di Ali, il ragazzo del centro commerciale Olimpia, si è discusso molto della presenza di un disturbo psichico causa di questo comportamento. Noi ci troviamo davanti a uno scenario che, per renderlo chiaro, ha tre tipi di problemi. Cioè, chi aderisce a questa storia dell'ISIS vivendo nelle terre del Iraq, no? Delle terre comprese del Siria. Lì c'è una ragione prevalentemente sociale, loro si sono proposti all'inizio come una sorta di welfare alternativo, quindi una situazione di grande desertificazione sociale, c'è una possibilità concreta per chi ha diritto. Poi c'è la radicalizzazione classica, cioè quella che ha previsto l'utilizzo dei mediatori, no? Di quelli che poi hanno facilitato il percorso, e lì c'è tutto un percorso psicologico in cui però gli studi classici su questa questione non evidenziano un problema psichiatrico importante. Il problema vero dal punto di vista della psicopatologia di cui parlavamo sono i dubbi solitari, perché in questo caso effettivamente una componente psicologica e di disagio psichico c'è, non ce lo possiamo negare. Il profilo degli attentatori di Orlando e di Nizza è inquietantemente simile, 31 anni tutti e due, molto arrabbiati tutti e due, con un odio che veniva veicolato attraverso una personalità molto complessa. Poi ci possiamo dire che i disturbi psichici, così come ce li immaginiamo, cioè imprevedibilità eccetera, non sono quelli che dobbiamo andare a cercare nelle persone che hanno queste problemi. E poi c'è un effetto collaterale di questa vicenda, perché mentre l'ISIS lucra su queste persone, no, si prende la responsabilità del gesto, Al-Adnani dice fate tutto quello che potete nel territorio, su qualsiasi mezzo, all'Akbar e noi insomma vi diamo, come dire, in franchising l'etichetta dei martiri di Allah. Poi ci sono gli effetti collaterali di questa questione, perché ho difficoltà a pensare che l'episodio di Monaco sia un episodio che possiamo mettere strettamente nel capitolo terrorismo. Certamente, come diceva lei, c'è una questione emulativa. Cioè, se noi abbiamo assistito al fatto che il terrorismo determina ansia sociale, contagio emozionale negativo e una serie di problemi psicologici in quelli che restano, tra virgolette, naturalmente ci dobbiamo proporre il problema del rischio dell'emulazione. Quindi è chiaro che in questo contesto su questo dobbiamo stare decisamente attenti. Però rispetto a questo ragazzo, io forse ti è detto molto della sua idealizzazione di Breivik, no? Dello stragista della Norvegia, sì. Sì, lo stesso giorno, peraltro, lui ha studiato un po' quello che ha fatto. In realtà in Breivik c'era una matrice politica molto importante, e lui stesso nel processo dice no, io se vengo considerato matto faccio ricorso. Però De Rosa, mi viene in mente anche questo ragazzo di origini afghane che su un treno tedesco giorni fa aveva coltellato dei passeggeri, no? Anche lui voleva scaricare il suo rancore, la sua rabbia. Cioè, se ognuno di questi, con la mente vagamente labile, con la voglia di scaricare l'aggressività, agisce in questo modo, diciamo che abbiamo un problema. Grosso problema. Ma mi risponda a questa ascoltatrice Clotilde, che dice: mi potete spiegare come mai sono solo gli uomini questi psicopatici, terroristi o stragisti e non ci sono le donne? Quindi, se vogliamo fare il profilo di questi lupi solitari o psicopatici solitari, come li chiamo io, c'è un filo conduttore, sono uomini. Come mai non ha presa sulle donne questa cosa? Non ha presa sulle donne l'azione terroristica, intanto per una ragione, che le donne in quello che è il sistema di riferimento del cosiddetto Stato Islamico hanno un'altra funzione. Hanno una funzione di crescita, hanno una funzione di propaganda, hanno una funzione di mediatrici, eccetera. Poi perché le ragioni che spingono a questo tipo di arruolamento in qualche modo sono abbastanza differenti. Negli uomini è più forte la ricerca della guerra, il desiderio bellico, il fascino del guerriero. La donna invece, tra le motivazioni che vengono identificate, spesso hanno aspetti che sono differenti. Per esempio il bisogno di portare assistenza, alle volte viene utilizzato anche dai mediatori uno strumento molto bieco, che è quello della paura di rimanere nubili, oppure del fascino del guerriero. Però è chiaro che il kamikaze è un kamikaze soprattutto, o meglio, il suicide bomber, cioè quello che si fa saltare in aria in qualche modo, è storicamente più maschile. Le azioni del mondo islamico femminili sono poche, le Tirza Miller. No, ma anche per parlare appunto di questi personaggi con problemi psichici, ecco, quelli che, non so, mi viene in mente anche nelle università americane, al di là di questi che ha detto, no, ogni tot in un'università americana arriva uno, un ragazzo, un uomo con un Kalashnikov e comincia a sparare appunto così. Il pensiero di Columbine è un pensiero che viene. Non abbiamo mai assistito a figure femminili in questi no, casi. Le figure femminili, le donne che commettono, diciamo, questo tipo di omicidio più eclatante, probabilmente lo fanno di più in famiglia. Va bene, Corrado De Rosa, dobbiamo salutarci a questo punto, mi dicono che il tempo sta scadendo, la ringrazio intanto per il suo intervento, grazie De Rosa. Ci dobbiamo lasciare, stavo leggendo invece messaggi che stanno arrivando per esempio su Trump. Stefano dice: la chance migliore che ha Trump è che i fan di Sanders lo aiutino a vincere, come forse sta facendo Moore, cioè il regista che citavo prima, il famoso regista Michael Moore, che dice: ci sono 5 ragioni per le quali Trump di sicuro vincerà. Di questo parleremo più tardi. 349-238-6666 per i vostri messaggi e WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Proseguiamo allora con i temi. Abbiamo parlato lungamente dell'ultimo attentato in Germania, di quello che ci può essere dietro a questo attentato. Il professor Orsini diceva che se l'Occidente, la comunità internazionale, l'ONU in testa, fa quello che deve fare, cioè riprendersi le città in mano all'ISIS sia in Iraq che in Siria, ci sono buone probabilità, diceva, che nel corso, insomma, di qualche tempo si possa in qualche modo sconfiggere l'ISIS. Ci sono degli ascoltatori non molto convinti, come Ulisse per esempio, che diceva: come è possibile? E poi invece stavo guardando questo altro messaggio di, vediamo se lo ritrovo. Dobbiamo accettare, ecco, nuovi attentati e continuare ad accettare migranti. La paura sarà la molla che porterà governi di destra estrema, poi avremo immigrazione selettiva ed espulsioni di massa. Questo è lo scenario che si prefigura. Un ascoltatore, un'ascoltatrice che non si firma, mettete anche un nome d'arte, insomma, qualcosa. 349-238-6666, il numero per i vostri WhatsApp, SMS per commentare le notizie del giorno, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Se non avete acceso puntualmente Radio 21, vi ricordo tra pochissimo le notizie più importanti e anche che tra poco parleremo della convention democratica negli Stati Uniti. Germania, l'ISIS rivendica l'attentato di Ansbach compiuto da un profugo siriano con problemi psichici che in un video giurava fedeltà al sedicente califfato. Incubo terrorismo, stilicidio di falsi allarmi in Europa, finto allarme bomba anche a Milano, era una scatola con circuiti elettrici. Presidenziale americane, parte a Filadelfia la convention democratica per l'investitura di Hillary, ne parleremo tra pochissimo. Per la politica italiana, polemiche per una frase di Salvini: Boldrini come una bambola gonfiabile, anche Irene Pivetti lo critica duramente, ma lui dice: non mi scuso. Legalizzazione della cannabis, il provvedimento all'esame dell'aula, voto finale però rinviato a settembre. Violenza sulle donne, un branco violenta una quindicenne, trappole tesa dal fidanzato, 12 gli indagati, tutti minorenni finiti in comunità. Rai, stipendi diventano un caso politico, scontro tra PD e Movimento 5 Stelle, dopo il CDA saranno online nomi e cifre della discordia. Calcio, si è consumata la rottura tra Mancini e l'Inter, il tecnico verso le dimissioni. We have got to defeat Donald Trump. And we have got to elect Hillary Clinton and Tim Kaine. Stavo precedendo Bernie Sanders, che era stato fino a qualche settimana fa il rivale democratico di Hillary Clinton, e poi dopo ha riconosciuto la sua sconfitta e ha detto: beh, qui avete sentito i fischi di protesta dei suoi sostenitori, perché naturalmente volevano che fosse lui il candidato ufficiale alla Casa Bianca democratico, ma anche perché c'è una storia un po' strana sotto. Ne parliamo con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti, che è a Filadelfia, dove sta per cominciare la convention democratica che deve dare l'investitura ufficiale a Hillary Clinton. Marco, buonasera. Buonasera a voi. Quindi questa storia di Bernie Sanders che sarebbe stato boicottato dallo staff della Clinton per farlo perdere, in realtà sembra che ci sia addirittura l'ombra di Putin. Cosa fa? Torna la guerra fredda? Che succede, Marco? Sì, la politica americana, della campagna presidenziale americana non cessa di offrire colpi di scena quest'anno. Sì, come ricordavi, c'è questo nuovo intrigo, questo nuovo scandalo e intrigo internazionale che, riassunto in poche parole, è questo. Sono state svelate, c'è stato un episodio di pirateria informatica al comitato, ai vertici del Partito Democratico. Sono state portate alla luce quasi 20.000 email confidenziali tra funzionari del partito e funzionari del partito e grandi donatori, ed è venuto fuori, sembra, ecco, che dietro questo episodio di pirateria, secondo gli inquirenti americani, ci sia la Russia di Vladimir Putin, ci siano agenzie di intelligence russe, anche se non è chiaro a che livello sia stata decisa l'operazione. E il risultato è comunque che queste email sono estremamente imbarazzanti per Hillary Clinton proprio all'apertura della Convenzione Democratica. Imbarazzanti perché? Perché da un lato confermano sospetti che già esistevano, cioè che il partito, i vertici del Partito Democratico, la nomenclatura democratica, ha di fatto boicottato, ha ostacolato e ha cercato di screditare in ogni modo la campagna di Sanders per spianare la strada a Hillary Clinton. Perché poi svela comunque una rete di scambi di favori tra il partito, i vertici del partito e però, i Marco, grandi donatori. Scusami, però sentivamo Bernie Sanders che è stato fischiato, ma che ha detto dobbiamo votare Hillary Clinton per battere in ogni modo Trump. Senti, a questa convention di Filadelfia chi parlerà stasera? Perché ora italiana verso le 10:30, no? Dovrebbero cominciare. Assolutamente, esatto. Sta parlando proprio Bernie Sanders quest'oggi, oggi pomeriggio all'apertura. Appunto, ha fatto il suo appello perché comunque venga sconfitto Donald Trump e quindi comunque anche i suoi elettori si uniscano alla campagna per eleggere Hillary Clinton, ma come ricordavi è stato fischiato dai sostenitori perché comunque sono restii, e lo scandalo delle email rafforza ulteriormente la loro disillusione nei confronti di Hillary Clinton per i problemi etici che solleva. Ecco, oltre a Bernie Sanders stasera parlerà un altro intervento di peso, sarà quello di Michelle Obama, che dovrebbe affrontare a sua volta temi caldi, temi legati alle tensioni razziali, al loro superamento e alla sensibilità che i democratici hanno nei confronti delle minoranze etniche e delle tensioni razziali, una sensibilità che invece i repubblicani tradizionalmente non dimostrano. Marco, invece, per quanto riguarda l'ultimo sondaggio, leggevo questa nuova rilevazione della CNN Org, Trump è per la prima volta sopra come punteggio, come percentuale nei sondaggi, almeno a Hillary Clinton. È la prima volta che succede, no? Da che è iniziata la campagna sì, per le presidenziali. Sì, è la prima volta che emerge un sondaggio, diciamo, un sondaggio di un certo peso, come quello della CNN, che mostra Trump con un vantaggio tra i 3 e i 6 punti. Perché è il 48% e lei 45%, esatto, sembrerebbe. Esatto, ed è diciamo, sicuramente un segno preoccupante, diciamo, un rimbalzo, un guadagno di punti dopo una convention è abbastanza normale, però resta comunque un segno preoccupante per Hillary Clinton, che soffre appunto di un deficit di entusiasmo da parte dei suoi stessi sostenitori proprio all'apertura della convention. Quindi sarà particolarmente delicata la gestione della convention democratica per il Partito Democratico e per Hillary Clinton per contrastare questa avanzata nei sondaggi di Trump. Grazie Marco Valsania, ci aggiorniamo. Allora, buon divertimento intanto lì a Filadelfia, poi ci racconterai le prime battute. Grazie Marco, ci lasciamo con un ascoltatore che scrive: non capisco, dice Roberto, cittadino europeo legalmente armato, dice: non capisco come limitare l'accesso alle armi ai cittadini europei che sono tutti ipercontrollati, appena ne entrano in possesso legalmente limiti l'accesso alle armi ai terroristi che le armi se le procurano illegalmente. Beh, su questo penso tu abbia ragione, come dicevo prima, però pare che ci sia questa polemica sulla stretta dell'accesso alle armi in Europa. La Germania sta da tempo tentando appunto di stringere su questo, mentre per esempio c'è il leader populista olandese Geert Wilders che dice che insomma bisogna avere la possibilità di poter avere le armi libere. Anche il presidente ceco, il presidente della Repubblica Ceca, dice che i cittadini europei devono avere libero accesso alle armi. 349-238-6666 per un messaggio WhatsApp oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che adesso vi ricordo molto in breve, con l'ISIS che colpisce in Germania, ad Ansbach poteva essere una strage, il kamikaze era un rifugiato siriano, giurò fedeltà al sedicente califfato. E poi abbiamo appena parlato della convention democratica che parte a Filadelfia per Hillary Clinton, ma Trump vola nei sondaggi, il tycoon la sorpassa per la prima volta e c'è Sanders che dice ai suoi sostenitori votate Clinton, ma viene fischiato dai fan, come abbiamo sentito. E poi online gli stipendi della Rai, 94 sopra i 200 euro, sono 94 i dirigenti che prendono stipendio sopra i 200.000 euro, dopo il CDA ci sarà ulteriore trasparenza, c'è cioè il nodo dirigenti senza incarico che sono comunque pagati, c'è scontro tra il Movimento 5 Stelle e il PD. E poi bambola gonfiabile, la sosia di Boldrini, questa frase di Salvini, leader della Lega, scatena una bufera, non c'è, c'è persino Irene Pivetti che dice è una grossa cosa vergognosa e volgare questa detta da lui. E poi non c'è accordo sulla cannabis, sul legalizzarla, e il disegno di legge viene rinviato a settembre. E per la tecnologia, per internet meglio, Verizon compra Yahoo per 4,8 miliardi di dollari, sparirà anche il nome storico di Yahoo, sfida quindi di Verizon a Google e Facebook. Europa 24 notte. Che aria c'è in Europa? Il 30 giugno 2016, qualche settimana fa, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla cosiddetta direttiva NEC, cioè volta a ridurre le emissioni di inquinamenti, di inquinanti atmosferici. La ratifica è prevista in ottobre, molte associazioni e dette lavori parlano però di un risultato al ribasso. Tra queste l'associazione Cittadini per l'Aria, presieduta dall'avvocata Anna Gerometta, intervistata da Laura Bettini. La critica essenziale è quella di aver ridotto l'obiettivo di riduzione degli inquinanti molto, nel senso che da un obiettivo di riduzione delle morti premature in Europa pari al 52% si è arrivati poi a un 49,6%, quindi sostanzialmente per anno ci saranno 9.500 morti premature in più di quello che si prevedeva secondo la bozza presentata dalla Commissione nel 2013 dal commissario Potocnik. In quali ambiti sono stati fatti i maggiori tagli, dove ci si è discostati maggiormente dalle proposte della Commissione europea? Principalmente si è tagliato il metano, che è stato completamente eliminato dalla direttiva, si è tagliato sul PM2.5 probabilmente per effetto del timore che il settore industriale venisse colpito da questo livello di ambizione, e si è tagliato anche tantissimo sull'ammoniaca, un settore che è stato ovviamente influenzato dalla, diciamo, lobby degli agricoltori. E devo dire che sotto questo profilo effettivamente è un grande peccato, perché l'agricoltura ha un impatto di cui si parla sempre pochissimo, ma che sta emergendo come un settore cruciale anche per il PM2.5, perché l'ammoniaca è un precursore del PM2.5 secondario, e quindi sarebbe stata veramente un'occasione straordinaria la direttiva NEC per iniziare e far iniziare al comparto agricolo un percorso, diciamo, di condivisione di uno sforzo per risolvere un problema che ormai è riconosciuto a livello mondiale come il primo problema ambientale sanitario. E quindi è veramente un peccato che il Consiglio d'Europa e gli Stati membri, in particolare l'Italia, l'Inghilterra, la Francia, la Polonia, abbiano veramente azzoppato questa direttiva, che fra l'altro ha oggi inseriti per richiesta dei governi dei meccanismi di flessibilità particolarmente pericolosi, perché sostanzialmente consentiranno in presenza di certe condizioni agli stati di liberarsi dagli impegni pur già ridotti della direttiva. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Carla scrive al 349-238-6666, mi chiedevo se nelle famiglie di questi ragazzi, questi che hanno sferrato attentati, c'è amore che è la vera arma della pace. Ma intanto leggevo che i genitori di questo ragazzo 19enne che ha compiuto l'attentato venerdì nel centro commerciale di Monaco di Baviera, in realtà era stato cacciato di casa a 16 anni, lui ne aveva 19, insomma, quando ha fatto l'attentato venerdì, perché loro erano spaventati dalla sua violenza, dalla sua aggressività, evidentemente non erano neanche in grado di gestirlo. Poi a volte può essere colpa dei genitori e dei familiari, a volte chi lo sa, insomma, imprevedibilmente uno che testa può avere, che problemi neurologici, psichiatrici, a volte anche, diciamo, indipendentemente dalla propria famiglia. Comunque, adesso cambiamo argomento, ci alleggeremo un po' con il nostro Carlo Genta, che trovate tutti i giorni a tutti i convocati dalle due, carissimo Carlo. Ciao Roberta, buonasera a tutti. Parliamo di calciomercato e mi sembra collegato al fatto che Mancini pare verso l'addio nei confronti dell'Inter, dipende dal calciomercato? Dipende dal calciomercato, dipende da situazioni di gestione interna all'Inter che non sono chiarissime. Con la nuova proprietà Mancini è stato in pratica esautorato da una parte dei suoi poteri, ha chiesto dei giocatori, la nuova proprietà ha detto che è disposta a spendere soldi per giocatori più giovani, non per quelli che chiede Mancini, che era abituato a fare mercato per conto suo, a chiamare giocatori, a contattare i giocatori, e quindi è una situazione chiaramente di difficoltà. Io credo che, insomma, Mancini stia andando verso l'addio all'Inter. Poi non ci sono voci ufficiali che lo confermano, però direi crisi matrimoniale. Senti, invece è stata un'altra crisi matrimoniale, quella di Higuain con il Napoli, no? Ormai è ufficiale. Beh sì, lì sai, si tratta di tradire una fidanzata con un'altra. Per Danè, diciamo pure i Danè ci sono di mezzo, Milano, no? Sono i soldi, i Danè, gli Sghei, come vogliamo chiamare. Gli Sghei in Friuli o come vuoi tu, il grano. Cifre mirabolanti, no, per Higuain, sì, mi sembra di avere un contratto cifre pazzesco. Mirabolanti, il Napoli certamente fa un affare perché comunque vende un giocatore cui aveva appiccicato il cartellino del prezzo, aveva fissato la causa rescissoria a 94 e qualcosa milioni di euro, ne arriveranno 90 dalla Juventus, è il trasferimento record per il mercato italiano, la Juventus si appresta a stabilire un nuovo record perché con ogni probabilità venderà Pogba al Manchester United per 125 milioni di euro, 120 milioni di euro, che comunque saranno record internazionali a ogni epoca. E in questo calciomercato si muovono davvero tanti soldi, e Higuain è già promesso sposo della Juventus, non andrà al ritiro del Napoli a Di Maro, non si farà vedere dai tifosi napoletani, e aspettiamo il prossimo Napoli-Juventus per capire cosa succederà. Grazie. Carlo Genta, poi ti sentiranno per quello che succederà tutti i convocati, tutti i giorni. Grazie Carlo, buona continuazione. Buona serata. Ciao. Noi ci riaggiorniamo giusto alle 22.